Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas, capitolo quarto, parte seconda. Alle 8:45 la Delaunay, a motore acceso, si fermò davanti al 142. Alexander Thomas, macellaio al 163, uscì sulla porta, incuriosito da quella superba limousine, così fuori posto nel quartiere come oggi una Daimler nella bidonville di Nanterre. Oltre al tram, passava ogni tanto in questo punto alla Rue Ordener, vicino alle fortificazioni. Solo qualche carrozza a nolo condotta da cocchieri canuti e rari taxi della Compagnie Parisienne, con guidatori dal berretto di cuoio e soprattutto carri da trasporto trainati da cavalli vigorosi. Gli imbottigliamenti erano riservati al centro, verso l'Opéra, Grands Boulevard e la Rue de Rivoli. Imbarazzato dalla presenza del macellaio curioso, che non poté vedere come gli altri l'uomo o gli uomini seduti nei posti del padrone, Jules avanzò di qualche metro sino al 148 all'altezza della latteria di Jean Allègre. Là Raymond, dopo aver cambiato il cappello con un berretto con paraorecchi, scese dalla macchina. Bonneau allentò di nuovo il freno a mano e innestò la marcia sino al 150, in faccia al deposito di vino delle Compagnie Beaujolais. Guardò il suo orologio, le 8:50, una pioggia fine, mezza nebbia e mezzo ghiaccio cadeva ostinatamente, le massaie imbacuccate negli scialli si affrettavano a compiere le loro commissioni, gli operai si affrettavano verso le officine e gli impiegati verso gli uffici, tutti col naso basso, la testa sprofondata nelle spalle. Nessuno si occupava più della Delaunay verde, né dell'uomo con gli occhiali che in mezzo al marciapiede sembrava stesse aspettando qualcosa. Improvvisamente Raymond si accostò alla vettura. «Eccoli!» disse chinandosi verso Jules e Octave. Quest'ultimo scese a sua volta e, le mani nelle tasche dell'impermeabile, venne a mettersi sul marciapiede al suo fianco. Due uomini avanzavano tranquillamente verso di loro, la testa abbassata per ripararsi dalla pioggia. Uno era riconoscibile da lontano, portava l'uniforme di cassiere della Société Générale, cappello a due punte, giacca verde scuro con bottoni d'oro, distintivo dorato sul petto. Si chiamava Ernest Caby e sostituiva un collega malato. L'altro, la guardia del corpo, era un certo Pimans. Raymond e Octave fecero qualche passo verso di loro, sino al numero 162, davanti al magazzino del signor Rochon. Poi si fermarono sbarrando il passaggio. Caby dovette urtare contro di loro. Quando alzò gli occhi, vide un uomo in giallo, dallo sguardo estremamente luminoso, che tirava fuori la mano dalla tasca. Nella mano c'era una Browning. Col primo colpo Octave lo ferì al collo. Il cassiere cadde sulle ginocchia emettendo un gemito. Octave tirò un secondo colpo e lo colpì al torace. Ma fallì Pimans, che fuggì urlando. Toccava a Raymond agire. Questi strappò un sacchetto di tela dalla mano sinistra di Caby, poi volle prendere la borsa di cuoio che quello portava sotto il braccio, ma il cassiere aveva le dita contratte sulla cinghia. Octave gli diede un calcio violento sulla mano e Raymond recuperò l'oggetto. Il magazziniere, il gerente della Beaujolais, gli impiegati della banca, i passanti, dapprima sbalorditi dalla rapidità dell'azione, corsero a questo punto pronti all'assalto, ma Octave li tenne a distanza, tirando qualche rivoltellata. Mentre i due complici percorrevano i pochi metri che li separavano dalla vettura, Jules, con molta calma, vuotò tranquillamente mezzo caricatore per aria. Tutti e tre, dall'altra parte, manifestarono un sangue freddo straordinario. Pareva si trovassero in un tiro a segno. Al momento di salire al proprio posto, Raymond lasciò cadere la borsa sul bordo della strada. Si abbassò senza fretta per raccoglierla, poi, vedendo avvicinarsi la folla rumoreggiante, Thomas, il macellaio, correre verso di loro, ebbe il tempo di tirar fuori di nuovo la pistola e di puntarla. È allora che sarebbe intervenuto il quarto uomo e avrebbe tirato in aria dei colpi d'avvertimento, a meno che nel panico i testimoni non abbiano visto male e l'abbiano confuso con Bonneau. È ancora lui che, mentre la folla si precipita e i complici mitragliano in tutte le direzioni, parte in tromba. Svolta a sinistra con una virata pericolosa e stridente verso Rue e Cloy. Rischia di sbattere contro un autobus che blocca l'angolo di Rue Montcalm, dà una tremenda sterzata a destra tale da far piegare la macchina su due ruote laterali e ancora a destra per Rue Vavenargues. Ondeggia sulla sabbia di un cantiere, urta un condotto di irrigazione e fila verso i boulevards esterni a 60 all'ora. Gli inseguitori sono già lontani, dietro di loro. La polizia aveva brillato per la sua assenza. Un rapporto del commissariato del 18° preciserà più tardi. Huguet, piantone all'incrocio della Rue d'Arenmort, Montcalm e Vauvenargues, sostiene di non aver visto né udito niente. Ha lasciato il suo punto di sorveglianza verso le 8:55 per andare al gabinetto. «Ti rendi conto? Ti rendi conto?» urlava Garnier in un folle accesso di riso. Raymond fece scendere il vetro divisorio. «Li abbiamo fregati, Jules. Siamo dei re», gridò a sua volta scompiando a ridere. Erano le 9:30 quando arrivarono a Saint-Denis. Jules ebbe un istante di esitazione prima di prendere una decisione. «Cerchiamo di andare alle Havre. Crederanno che siamo filati in Inghilterra. Prenderemo per strade secondarie per evitare gli sbarramenti». Poco a poco Octave si abbandonò sul sedile, pallido, sfinito, per la tensione nervosa. Solo Raymond saltava ancora al colmo dell'eccitazione. Jules non manifestava nessun sentimento. In caso di disgrazia erano d'altra parte tutti decisi a vender cara la pelle. Raymond aveva 6 revolver, di cui uno speciale, munito di un calcio smontabile che sparava a 800 metri. Jules 6, anche lui. Octave 3, più 400 cartucce e vari caricatori nelle tasche. Percorsero ancora una 20 chilometri, senza parlare. Poi Jules non si tenne più. «L'hai fatto fuori?» domandò Octave seduto al suo fianco. «Evidentemente», rispose quello. «Due pallottole. Credo che ha avuto quel che cercava. Credi davvero che fosse indispensabile? Un testimone imbarazzante di meno. L'altro è stato abile. L'ho mancato». «Imbecille», disse Jules. Octave non capì o fece finta di non capire e la conversazione, resa difficile dal rumore del motore, si fermò lì. Alle 11, poco dopo Pontoise, Jules fermò la macchina sul ciglio della strada. Era venuto il momento di far l'inventario del tesoro. Il sacchetto venne vuotato, 5.126 franchi e 53 centesimi, in luigi d'oro e d'argento. Poi si diede da fare intorno alla serratura della grossa borsa. Quando l'ebbero aperta provarono un'enorme delusione. 210.000 franchi in titoli nominali, probabilmente inutilizzabili, 190.000 franchi in titoli al portatore, difficilmente trafficabili e neanche una banconota. Senza saperlo avevano trascurato l'essenziale. Cabì aveva un portafogli in una tasca interna, legato al panciotto da un listino di cuoio, contenente 20.000 franchi in banconote. I ladri c'erano cascati. Era tremendo aver ucciso un uomo, aver affrontato la folla di un quartiere popoloso in pieno giorno per 5.000 franchi. Jules lanciò un'occhiata di traverso a Octave, stravolto dalla fatica e dalla delusione. «È andata buca», lo vide mormorare, ma Raymond alzò subito le spalle. «Non fate quelle facce», disse, «non dobbiamo scoraggiarci, non abbiamo motivo. I titoli al portatore sono di facile ricettazione. De Boe conosce uno specialista a Amsterdam. Me ne incarico io. Mi gioco la testa se non ne ricaveremo almeno 50.000 franchi. E poi che cavolo ci prende? Abbiamo appena sperimentato che può andar bene. Ricominceremo. Andrà meglio la prossima volta. Non è vero, Jules?» Jules assentì in silenzio e Raymond gli domandò come un favore il diritto di guidare a sua volta. Allora, per lunghi chilometri, malgrado la pioggia, si lasciò esaltare dalla velocità, nella piacevole sensazione di aver vinto la paura, di essere il padrone del mondo. una ebbrezza talmente straordinaria per lui che a Glisor finì per sbagliare strada. Fermò la macchina, scese per controllare un segnale stradale. Una macchina si accosta, rallenta, sta per fermarsi, prosegue, buon per lui. A Beauvais, un impiegato del dazio che evidentemente non sa con chi ha a che fare, cerca di fermare la loro corsa. Raymond spinge a fondo l'acceleratore e passando gli fa una smorfia. La sua stupidità è così grande, scrive nei suoi foglietti, che cerca di correrci dietro, poi si ferma. A bocca aperta, questo ignobile animale certo non aveva mai visto niente del genere. Ma i più frenetici piaceri finiscono anch'essi per stancare. Alle 4:30 la fatica e la fame si fanno sentire. Octave compra pane e cioccolata in una panetteria di campagna. Jules è di nuovo alla guida. Alle 5:15, in un altro paese, Raymond procura una latta d'olio per la macchina, che comincia a fumare e si rimette al volante. Una nebbia densa e spessa li avvolge. Sbagliano strade di nuovo. Alle 6, ormai in difficoltà, tremando per il freddo, investiti da raffiche di vento, arrivano a Dieppe, invece che alle Havre. Pazienza. Andiamo fino al mare, propone attraverso il cornetto acustico Raymond, a Jules, che sonnecchia sul sedile posteriore. Spingeremo la macchina su una scogliera. Tutti ci crederanno in Inghilterra. Buona idea, risponde Jules. Girano per un bel pezzo per la strada di Dieppe, sorpassano il casinò, ormai la benzina è agli sgoccioli, il motore incomincia a ingolfarsi e a perdere colpi, Raymond continua ad andare diritto e all'improvviso l'auto non va più avanti, il fango arriva a metà ruote, scendono, solo allora si accorgono di trovarsi su una spiaggia, la corsa è finita, si danno da fare a svitare le targhe e le buttano in mare, che le respingerà il giorno dopo sulla spiaggia e se ne vanno alla stazione. Nella tempesta Raymond perde il cappello e è costretto a coprirsi con un berretto. Dopo una breve attesa prendono un treno per Parigi. Vi arrivano poco prima dell'una di notte. Davanti alla gare Saint-Lazare uno strillone si sgola. «Comprate la Patrie! L'audacia dei banditi in auto!» Radioso Jules compra il giornale e tutti si fermano per un po' alla luce di un lume a gas a leggere il resoconto della loro impresa. Cabi, il cassiere, non era morto. Era stato trasportato prima in una farmacia, poi all'ospedale Bichat, dove si sperava di salvarlo. La Société Générale offriva un premio di 12.500 franchi a chi fosse in grado di fornire informazioni sui banditi in auto. La caccia all'anarchia cominciava, sorniona ma violenta, spietata. Il primo ad accorgersene fu Raymond. Gli altri, dopo essersi separati, andarono a nascondersi nei loro rifugi. Lui si era impegnato a negoziare i titoli e Jules glielo ricordò. Si mise immediatamente in cerca di Deboe e scoprì che si trovava a Bruxelles. Dormì qualche ora e poi saltò su un treno, pieno di ottimismo. La fortuna era a portata di mano. Con qualche acrobazia riuscì a passare la frontiera senza difficoltà. A Bruxelles trovò facilmente il tipografo, né papa molle né porco, e gli spiegò l'affare. Si trattava di metterlo in relazione ad Amsterdam con Vandenberg, un vecchio galeotto temuto dalla polizia olandese, un compagno dei tempi del Revolté, un vero genio nel suo campo, con cui Deboe era rimasto in contatto. Questi accettò subito ed essi partirono. Le cose sarebbero andate altrimenti. Il 23 dicembre, in un bordello vicino a Newmarket, il vagabondo gli rivelò che il numero dei titoli era stato comunicato a tutte le banche d'Europa. Erano invendibili. Egli li avrebbe tenuti in deposito in ogni caso, ma non ne garantiva un solo fiorino. Inoltre, la prima offerta della Société Générale era stata portata a 50.000 franchi. Tutti gli informatori erano sul chi vive. Approfittando della notte di Natale, Raymond riuscì nuovamente a superare la frontiera attraverso itinerari che gli erano familiari. Il 26, verso sera, trovò Octave e Marie a casa loro, a Vincennes, al 42 di Rue de la Laitière. La stanza sapeva di chiuso, la coppia era a letto. Malgrado il suo sconforto, Raymond sorrise vedendo il colore dei capelli del complice. Li aveva tinti di biondo. Garnier si vestì rapidamente e abbracciò la sua splendida amica, che gli raccomandò con un tono languido di non rincasare troppo tardi. Appena furono usciti, Raymond raccontò il proprio scacco. Octave lo mise al corrente a sua volta delle novità. Erano tutte cattive. Il cassiere sopravviveva ostinatamente. La polizia aveva identificato il proprietario della Delaunay. La notte tra il 23 e il 24 un furto era stato commesso presso l'armaiolo Fourier, in Rue de Lafayette. 125 revolver rubati con le loro munizioni. Erano stati considerati subito responsabili anche di quell'affare. Loro, cioè, gli anarchici in generale. Un agguato era stato teso a Romainville, negli antichi locali dell'anarchia. Rimbaud, il quincagliere di Livry, amico di Monnier e Poyet, il meccanico, erano stati arrestati. Avevano trovato da loro un intero arsenale proveniente da un altro armaiolo, Rue de Fils Saint-Thomas. La ricompensa era stata portata a 125.000 franchi. Montmartre, Pantin, Les Chapelles, Clignancourt erano pieni di spie. In tutti i caffè entravano sconosciuti che, col pretesto di bere un bicchiere di rosso, lanciavano un'occhiata nella sala interna e facevano domande ai clienti. Comprarono i giornali. Il titolo del Petit Parisien diceva: «Dopo 6 giorni di inchiesta i banditi sono ancora introvabili. Sorvegliano gli individui loschi di Montmartre, gli anarchici, i ladri di auto e di pneumatici». Si ripetevano i loro segni di riconoscimento. Per Raymond, un uomo piccolo con gli occhiali e l'aria di un bebè roseo. Per Garnier, un uomo dagli occhi straordinariamente luminosi. Per Bonneau, sottili baffi bruni tendenti al rossiccio, un autista fuori classe. A proposito, che stava facendo Bonneau? Niente. Sapeva, non lo trovava all'altezza. «Tu esageri», disse Raymond, «non è colpa sua. Il colpo era ben architettato. D'altronde cercheremo di trovarlo all'appuntamento». Certi giornalisti parlavano di una banda internazionale favolosamente ben organizzata. Le si attribuiva di tutto. Nel Matin si accusava Barbe, Picot di Montparnasse, di essere di loro. Quest'ultimo, per emulazione, aveva effettivamente tentato di fare a sua volta in auto un cassiere a Puteaux, ma non guidava molto bene. Era stato preso. Picot aveva dovuto passare un brutto quarto d'ora. Li segnalavano dappertutto, contemporaneamente. Li avevano visti a Limoges, a Rouen, a Lilla. A Bruxelles il cameriere di un caffè li aveva riconosciuti nel momento in cui spartivano tra loro il bottino. L'italiano Ravera, specialista nel furto di automobili, era certamente dei loro. Gli animi erano sovraeccitati. Gli incidenti di Agadir, tenuta da una corazzata tedesca sotto il fuoco dei cannoni, il naufragio del Delhi sulle coste marocchine con a bordo la sorella del re d'Inghilterra, l'Alsazia e la Lorena, la rivoluzione cinese fomentata da Sun Yat-sen contro la dinastia Manciù, la guerra italo-turca in Tripolitania e soprattutto le discussioni tra Caillaux, presidente del Consiglio, De Sales, ministro degli esteri, e Clemenceau, il nazionalista che singhiozzava i suoi chicchirichi a proposito dell'accordo franco-tedesco che lasciava a Berlino 10 miliardi di mosche tsetse con un pezzo di palude africana. Un'infamia, una vigliaccheria, un tradimento, tutto era relegato in secondo piano dai banditi tragici. 125.000 franchi, una bella somma, disse Raymond meditabondo. Conosci molte lingue che non si scioglierebbero per quel prezzo? «Nessuno sa niente», disse Octave. «Se c'è uno che parla, io lo ammazzo». Evidentemente è una soluzione. Nel metrò che presero in direzione di Montmartre ebbero 20 volte l'impressione di essere osservati. 20 volte portarono la mano alla tasca. Avevano i nervi tesi. «La società si difende», riprese Raymond, mentre salivano le scale della stazione la Marque Calancourt. «È normale. Non si perdono di aver rifiutato la schiavitù, di aver detto no alla vita schifosa che ci proponeva. Ci trattano già come degli scarti, dei rifiuti, senza morale né educazione. Vogliono far di noi delle bestie selvagge per poterci braccare più facilmente. Sarà terribile». «Ne abbiamo da vederne», rispose Octave. «Sì, certo», disse Raymond. «Soli contro tutti è un affar serio». Si recarono nel caffè stabilito da Bonneau come luogo di incontro, ma questi non venne. Al suo posto, dopo un'ora, videro entrare Dieudonné. Allora, che c'è di nuovo? Domandò dirigendosi verso di loro. Non hai letto i giornali? Sghignazzò Octave. No, perché? Disse Eugene. Non importa, te ne faremo un resoconto, disse Octave. Basta così, disse Eugene, voltandosi verso Raymond. Ascoltare le fesserie di questo signore che mi hai fatto venire a Parigi? Raymond gli fece segno di tacere e gli indicò una sedia. Non innervosirti, Eugene, tu non sai, non sai, non c'è niente di male. Di dunque, non sei al corrente? Luisa ha lasciato l'Orlò? Dio, disse Eugene impallidendo, come vuoi che lo sappia? Arrivo adesso da Nancy. Dov'è? In un albergo, non lontano di qui. Ce l'ho messa io la settimana scorsa. D'altra parte, non so se c'è ancora. Con le donne? Dov'è? Vai a dargli la vinta una volta di più, eh? Disse Raymond ridendo. Non l'hai ancora capito? Tu non mi conosci. È capitato una volta, non capiterà la seconda. Raymond finì per dargli l'indirizzo. Eugene se ne andò sotto i loro sguardi canzonatori. A un certo punto fu necessario rendersi conto dell'evidenza. Bonneau non sarebbe venuto e loro non sapevano dove abitava. Forse avrebbero potuto incontrarlo nel quartiere in fondo a qualche altro bistrot. E se ci riconoscono, disse Raymond, al punto in cui siamo. I due amici uscirono in Rue Lepic. Si imbatterono in Valais. Questi li salutò con tono cupo, guardandoli negli occhi. Li accompagnò sino a Clichy, senza aprir bocca, con la testa bassa. Prima di lasciarli, strinse loro calorosamente la mano, guardandoli di nuovo. Se avete bisogno di me, disse, sapete dove trovarmi. Credi che sia al corrente? Domandò Octave, quando Valais scomparve nella notte. E chi lo sa? In ogni modo è uno bravo. Attraversarono il cimitero di Montmartre sul ponte Calancourt. Passare all'idée libre non sarebbe molto prudente, disse Raymond. Mettiti bene in testa una cosa, disse Octave. Se siamo fregati, siamo fregati. Là o altrove, adesso o più tardi, è la stessa cosa. L'Orlò era solo nel negozio, non sembrò contento di vederli. Stavo chiedendo, disse. A parte questo, che c'è di nuovo? Chiese Garnier sedendosi su una tavola. Niente, niente del tutto, rispose l'altro. Si stava affaccendando intorno a un mucchio di cartacce. Hai perduto qualcosa? Domandò Octave. No, no, un progetto di volantino che volevo bruciare. È meglio diffidare con tutti i poliziotti che gironzolano nel quartiere. Ah, bene, e tu, Raymond, ne hai visti di poliziotti? L'Orlò tirò un gran respiro prima di parlare. Io vi voglio bene a tutti e due, disse in fretta. Non so chi ha fatto il colpo e non mi interessa, ma la Rue Ordener è un affare troppo grave per me. Non voglio entrarci. Bisogna dirlo prima, disse Octave alzandosi. Non vuoi più vederci? D'accordo, abbiamo capito. Non è questo che voglio dire. Cos'è esattamente questa storia della Rue Ordener? Disse Raymond. Vi dico che non so niente. Su, vieni, disse Garnier. Lo vedi, no? Che lo imbarazziamo. Salve André. Salve. Fuori faceva un freddo cane. Si tirarono su, rabbrividendo il bavero del cappotto. All'angolo del vicolo due poliziotti stazionavano sotto un lampione. Dalle loro nari uscivano nuvolette di vapore. Una nuvola molto più grande usciva da un tombino ai loro piedi. Raymond fece per arretrare. Non fare il fesso, mormorò Octave. Passarono. Il cappello sulla fronte, la testa bassa, le mani in tasca che stringevano le Browning. Gli agenti li seguirono con sguardo distaccato. Una carrozza era ferma, solitaria. Vi saltarono dentro. A Belleville, ordinò Raymond al cocchiere. Vi dirò io dove fermarvi. Poi, voltandosi verso Garnier, voglio vedere se ci faranno tutti la stessa accoglienza di Lourlot. La fatica, il freddo, lo scacco di Amsterdam, la sensazione spiacevole di essere continuamente seguiti, spiati, sospettati. Lo scoraggiamento non era lontano. Raymond non aveva la vocazione dell'assassino, anzi, un dubbio lo tormentava quasi un rimorso. Aveva avuto ragione? Una voce in lui sosteneva che il loro unico torto, ma immenso, era l'aver trovato titoli invece di denaro. Oscuramente parlava di crimine. Aveva un bel ripetere che questo era il prezzo della libertà. Niente la faceva tacere. Il sentimento si ribellava alla dottrina. Se avesse potuto, avrebbe pianto. Aveva bisogno di sentire il parere di qualcuno estraneo all'affare, di venire rassicurato. No, non era un criminale. No, non era un porco. Ad armare il suo braccio era la società. «È duro essere un uomo», mormorò, arrestando la carrozza all'inizio della Butz Chaumont. Bruscamente, Octave si fermò. «Di dunque, non è mica da Retif che mi stai portando?» «Sì, sei scemo, dopo quel che ha detto di noi. Non ci si può fidare. Conosco Victor, da più tempo di te», disse Raymond, trascinandolo verso la Rue Fessard. «Non abbiamo sempre le stesse opinioni, è vero. Ha un lato sentimentale che non mi piace, ma se c'è una persona a Parigi a cui affiderei la mia vita senza paura di venir tradito, è lui. Ci sono dei particolari che tu non sai, Octave. Succedono certe cose in Russia. Lui è russo, non dimenticarlo. Non vedo il rapporto». Tacquero, credendo di aver visto un'ombra sul fondo di un portone. Avanzarono col cuore in gola, un mendicante assopito. «Da loro deve essere sorvegliato», mormorò Octave. «Adesso, più tardi, ghignò Raymond, sei tu che l'hai detto». Penetrarono silenziosamente sotto il portone del 24 e salirono al primo piano, trattenendo il respiro. Raymond si fermò per ascoltare. Non un rumore. Grattò alla porta con l'unghia e s'azzardò a battere tre piccoli colpi. Un impercettibile mormorio all'interno. Rumore di passi felpati. La porta si aprì bruscamente, tirata da Rirette. Dallo spavento ella portò la mano alla bocca. Stavano là, immobili, senza osare entrare, coscienti improvvisamente del loro aspetto abbattuto, dei pantaloni gualciti, della polvere sulle scarpe, ma già arrivava Victor. «Entrate», disse. «Non restate là», insistette Rirette, dopo aver chiuso la porta, spingendoli verso la camera del fondo. Victor prese una lampada sul tavolo della sala da pranzo e la portò nello studio camera da letto. Un fuoco di legna crepitava nel camino. Un po' dappertutto libri e vasi pieni di fiori. Una luce dolce li illuminò quando Victor ebbe portato la lampada. «Ti sta bene qui», disse Octave. «Sss», fece Victor, indicando col dito il letto dove dormivano Maud e Chinette. «Ah», disse Octave a mezza voce. I due uomini si sbarazzarono del mantello e del cappello che deposero ai piedi del letto delle bambine. Garnier si sedette a fianco e Raymond su uno sgabello vicino a Rirette. Victor restò in piedi, appoggiato alla scrivania. Un silenzio pesante si diffuse. Nessuno sapeva da che parte cominciare. «Allora eccovi ritornati», disse di colpo Victor. Raymond si sentì sollevato. Lo sapeva che Victor avrebbe indovinato. Abbozzò un pallido sorriso. «Sì», disse semplicemente, tirando fuori un fazzoletto dalla tasca per asciugarsi gli occhiali. «Allora eravate voi?» «Sì», disse a sua volta Octave, con un soffio involontariamente impressionato da quell'atmosfera insieme intellettuale e familiare. «Da 3 giorni», riprese Raymond, con voce sorda, «ci rendono l'esistenza intollerabile, abominevole. Noi non vogliamo andare dagli amici per non comprometterli, ma siamo allo stremo delle forze. Ecco, era detto». Faceva pietà a vedersi Raymond, il viso disfatto e la schiena curva. Non c'era più traccia dell'arrogante ideologo che aveva provocato una lite con Victor un mese prima. Era ritornato il povero ragazzo di Bruxelles, picchiato dal padre e che vagava affamato per le strade. Rirette dimenticò tutte le prevenzioni. «Forse avete fame?» domandò dolcemente. «Volete mangiare?» «No, grazie», disse Raymond, «ma prenderò volentieri una tazza di tè». «E io un po' di caffè», disse Octave d'impulso. Rirette si affaccendò silenziosamente nell'angolo che serviva da cucina. Raymond si sentiva invadere da una sorta di torpore. Era a terra. «Allora, Raymond, vieni a patti coi tuoi grandi principi adesso?» disse Victor, sforzandosi di scherzare mentre Rirette li serviva. «E anche tu, Octave, tè, caffè? Non avete paura che questo vi trascini ad altre concessioni?» «Se ce ne lasciano il tempo», disse Raymond. «Che sciocchezze!» esplose improvvisamente Octave con gran stupore di Raymond. «Eravamo partiti su un affare d'oro, ma non è andata. Bonneau doveva portarci a Rue Ordener. Non può andar male», ha detto. «Tutto controllato, tutto previsto. Salvo che l'avremmo scontata a dovere, disse Raimond. Riletti li ascoltava, senza muoversi, combattuta tra la commozione e il timore di sentire all'improvviso una squadra della Sûreté che sfondava la porta. Maud e Chinette dormivano tranquillamente, con un vago sorriso sulle labbra. «Perché siete venuti qui?» disse con la maggior calma possibile. «Lo sapete che la casa è sorvegliata?» «Un po' prima, un po' dopo», disse Raymond, «il respiro dei cani da caccia è sulle nostre nuche. I seguci non ci lasceranno più. D'altra parte, siamo facilmente riconoscibili, tutti e due. Io con gli occhiali e la mia scarsa statura, lui coi suoi occhi. Ho un bel ripetergli ogni 100 metri. Octave, tieni gli occhi bassi. Non c'è niente da fare. Allora, lo vedete, non ci curiamo neanche più di nasconderci». Cadde di nuovo il silenzio. Maud si voltò gemendo, in preda a qualche incubo. Non c'era più niente da dire. Ognuno aveva scelto la propria vita. Era troppo tardi. I dadi erano stati gettati e truccati. Suonò l'una al campanile di Belleville. «Andiamo», disse Octave, «bisogna partire». «Di già?» sospirò Raymond, riempiendosi gli occhi della quiete che lo circondava. «È ora», ripeté Octave con un tono duro. Ripresero cappotto e cappello e Victor li riaccompagnò sino alla porta. «29 dicembre. Monsieur Juin, sottocapo della Sûreté, incaricato dal suo superiore, Monsieur Xavier Guichard, di prendere in mano l'affare dei banditi in auto, non era contento. Brandiva il Petit Parisien dando pugni sulla scrivania. «Siamo addirittura preceduti dai giornalisti», gridava. «Mi pare proprio che si stia passando il segno». Juin aveva buone ragioni per andare in bestia. L'informazione che gli aveva inviato il commissario di Bobigny era già stata pubblicata il giorno prima con grossi titoli sul giornale. Detweiler, un garagista conosciuto come anarchico, aveva aggiustato e custodito da Delaney Belleville dal 14 al 20 dicembre. L'informatore, tale Chaperon, usciere di municipio, informato a sua volta dalla signora Canton, vicina di Detweiler, era tuttavia stato imparziale. Aveva comunicato la notizia tanto ai giornalisti che ai rappresentanti dell'ordine. I primi erano stati più rapidi. Avevano avuto il tempo di verificare e di pubblicare. Risultato: tutti gli anarchici francesi erano già prevenuti. Invece di organizzare i controlli attorno al garage di Detweiler, bisognava procedere a una perquisizione. E tutto ciò a causa di cartacce burocratiche. Juin è un poliziotto che ama il proprio mestiere, esercita con efficacia, con coscienza e con tutta l'onestà possibile. Molto vicino ai suoi uomini, non esita a fare le cose lui stesso. E come si dice alla sede, della sede centrale, conosce tutti i cantoni. Per esempio, è lui che spesso tratta direttamente con gli informatori. Li conosce uno a uno, e costoro si fidano di lui, negli affari è leale. Tanto per tanto, che non bisogna camminargli sui piedi. Il suo schedario lo conosce a memoria. E guai a mettergli i bastoni tra le ruote con pretesti politici e amministrativi. Il lavoro è il lavoro, e i metodi sperimentati rendono sempre. All'alba del 29 dicembre egli si recò a prendere, coi suoi ispettori, il citato Detweiler, la moglie e i tre figli, e li condusse al Quai des Orfèvres, non senza aver intanto predisposto varie trappole. Non ne poté cavare molto. Il garagista confermò la storia Delaney. Perché i bidoni di benzina rubati pieni da Norman erano stati ritrovati vuoti? Perché la moglie sosteneva che egli le aveva preannunciato l'arrivo dell'automobile con 2 giorni di anticipo? Egli non sapeva niente. Alle 6 di sera una donna cadde nella trappola. Aveva una carnagione di levantina, un nastro di stoffa vivace tra i capelli. Era Jeanne Georgis, Rata Belardi, e disposta a rispondere a tutto. Vive con Raoul Blanche. Dov'è? Sui mercati, nelle fiere, a spingere una vetturetta per vendere giocattoli, come gli capita spesso di fare. Perché gli piace la vita all'aria aperta, è il miglior modo che ha trovato per conciliare il suo gusto con gli spazi aperti, col bisogno di soldi. Ma no, non vende gioielli falsi né oggetti rubati. Che orrore! Non gli si può rimproverare proprio niente. Non va mai al caffè, non beve che acqua, si nutre di frutta e di legumi. Saint-Ibald le Vigne? Sì, l'hanno lasciata il 17 dicembre, ma l'affitto era pagato fino al 15 gennaio. Sì, ha pure il diritto di traslocare, no? Sì, si trovavano a Bobigny, tutti e due, tutti e tre con la figlia, il 20 dicembre. Ma non ha sentito niente. Come mai hanno trovato nel doppio fondo della valigia di Le Blanche, nella loro camera, tutto un apparato per il furto? Non ne sa niente? E se Raoul Le Blanche per caso si chiamasse piuttosto Edouard Carouy? Avanti, in galera. Il giorno dopo Edouard scoprì con stupore dai giornali di aver partecipato al colpo della Rue Ordener. I testimoni l'avevano formalmente riconosciuto. Era lui che aveva tirato sulla folla dalla portiera dell'auto. Un mandato di comparizione era stato spiccato. I giornali pubblicavano la sua foto e i suoi dati segnaletici e ne annunciavano il prossimo arresto. A questo punto toccò a lui arrabbiarsi. Una rabbia fiamminga, pesante, lenta, enorme, come era lui stesso. Perché venivano a infastidirlo? Lui non voleva attaccar briga con nessuno. Questa era una provocazione. La sua prima reazione fu di acquistare una bottiglia d'inchiostro rosso color sangue e di prendere una penna. «Buon uomo», scrisse all'ignobile delatore, «la tua situazione è chiara, puoi andare dove vorrai. Ti ritroverò dappertutto, salterai, è in gioco la tua testa, come quella della tua compagna», e firmò il vendicatore dell'auto. Ma ancora non bastava. Anzi, tutt'altro, il 31 dicembre il suo amico Match, il cuoco, si mise in contatto con Carouy. Lo informò delle sue intenzioni. Un possidente, quasi centenario di Thiaï, vicino a Chantilly, abitava da solo, con la vecchia governante. È incredibile quante cose si vengono a sapere girando i mercati. Il 2 gennaio i due uomini vennero a ispezionare i luoghi. Chiesero la strada a una passante, la signora Dragon, cassiera della ditta Singer. Sì, va a Rue de l'Église. Conoscete il signor Moreau? No, non lo conoscevano, ma sentì distintamente Duarte che diceva a Match: peccato che siamo in pieno giorno, bisognerebbe farcela. Ha fatto di certo un giro di incassi. Verso le 4 del mattino, Carouy e Match, con scarpe di corda, ritornarono alla costruzione d'angolo tra la Rue de l'Église e la Rue Maurepas. Scalarono il muro di cinta, saltarono nel giardino e entrarono nella casa dalla porta posteriore. Salirono silenziosamente le scale, un gradino scricchiolò. Subito si accese la luce. «Chi è là?» chiese una voce tremante di donna. Quello che avvenne dopo fu atroce. Quei porci di vecchi non vollero lasciar fare, gridavano, tutti e due come vacche, bisognava farli tacere, se no avrebbero gettato l'allarme in tutto il quartiere. «Bastardi!» La vecchia arfò. La governante si aggrappava alla finestra, cercando di aprirla. Moreau aveva impugnato un martello. Match e Edouard cominciarono a picchiare, ma non bastava. Allora li prese la vertigine e picchiarono ancora, ancora, ancora, sporchi di sangue, urlando a loro volta, forte come le vittime, come ossessi. «Adesso la smetti, merdoso! Di, adesso la smetti!» Il medico legale riscontrò 10 colpi di coltello e 2 di martello sul corpo di Moreau. La signora Arfo aveva avuto il cranio e il naso fracassati a martellate. L'avevano finita con un cuscino. Tutti i cassetti erano aperti, tutti i mobili rovistati, sventrati, rovesciati. I banditi avevano portato via 20.000 franchi in titoli e senza dubbio almeno 10.000 in biglietti da 40, 50 e 100 franchi. Avevano lasciato tutte le impronte digitali che Bertillon, inventore delle schede antropometriche di identificazione, poteva desiderare. L'uomo, che non poteva sopportare di vedere gli uccelli in gabbia, rispondeva alla provocazione con la provocazione, poiché gli avevano arrestato la donna amata. Libri ribelli. Già vecchio. libri ribelli.